in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. E questa settimana veramente mi piace segnalarvi la copertina dell'Economist, il nuovo numero dell'Economist in edicola da ieri, perché come tutta la stampa è molto focalizzato su questa pandemia, su tutti gli effetti della pandemia, ma fin dalla copertina si capisce che il tema affrontato dall'Economist è un tema veramente importante. Come sempre, sapete che l'Economist è un settimanale sicuramente di impianto liberale nel senso anglosassone del termine, non ci sono firme perché questo dà l'idea che i giornalisti sono veramente una squadra, non c'è nessuno che deve spiccare per mettere in mostra il proprio nome, è proprio un'opera di un gruppo di teste pensanti che cercano di dare un senso alla tanta cronaca a cui siamo sottoposti. E come vi dicevo, il tema fin dalla copertina, illustrato da questo disegno, dove da una parte c'è Wall Street, che naturalmente è la strada dove si trova la borsa di New York, quindi è il simbolo appunto dei mercati finanziari, e dall'altra c'è Main Street, che letteralmente vuol dire la strada principale, ma che si intende è un modo per intendere l'economia reale. Quindi tra questi due blocchi di una ipotetica mappa di una città c'è una frattura, e il titolo è A Dangerous Gap, una frattura, appunto una divisione pericolosa, i mercati e dall'altra parte l'economia reale. E come avrete probabilmente sentito, una delle anomalie di questi ultimi due mesi è che se da una parte i dati economici dell'economia reale, con i record di disoccupati, le previsioni di PIL in caduta libera per praticamente ogni paese al mondo, appunto sono molto negativi, dall'altra, escludendo alcune giornate, i mercati finanziari, e in particolare la borsa di New York, che è la più importante al mondo, ha continuato a andare bene. E c'è questo, appunto, quello che secondo l'Economist, e nel mio piccolissimo sono d'accordo, anche perché il ragionamento poi all'interno è molto convincente, è una questione pericolosa, perché come sappiamo la finanza spesso, se va da sola, se pensa di vivere in un mondo staccato dal mondo reale, può portare a disastri, come è stato nella crisi del 2008, che è stata proprio una crisi di origine finanziaria che poi si è tradotta in una crisi vera e propria dell'economia reale. Quindi questa è la copertina dell'Economist di questa settimana, che poi approfondisce tantissimi altri aspetti sulla pandemia, che quindi appunto vi consiglio. A proposito di fratture, su Vox Europe invece c'è un interessante approfondimento di questo gruppo di giornalisti di Madrid, che si intitola Il virus apre una nuova frattura in Europa. In questo caso è una frattura per come naturalmente si è diffusa la pandemia, per come è stata affrontata e poi per tutte le differenze che stanno emergendo tra le economie, in particolare la Germania, ma anche l'Olanda vuole presentarsi così, le economie che avevano dei fondamentali molto solidi prima della pandemia e che quindi a maggior ragione non vogliono essere accomunati a paesi che invece sono arrivati alla pandemia, e l'Italia è uno di questi, con un'economia molto debole e fragile e che naturalmente quindi ha subito gli effetti economici di questa pandemia in maniera più pesante rispetto agli altri. Al di là, naturalmente, perché questo è tema che penso dovrà essere affrontato a tempo debito, ma sicuramente non ora, al di là delle singole reazioni che hanno avuto i governi per mitigare gli effetti appunto della pandemia, prima quelli sanitari e poi quelli economici. Per una volta tanto parlare anche di qualcosa che non è il Covid, la Süddeutsche Zeitung e tantissimi altri giornali tedeschi hanno dato spazio al processo che si è concluso per la tragedia della Love Parade. Sono passati, pensate, 10 anni fa, in questo raduno di musica techno che si tenne a Duisburg morirono 21 persone, e tra queste tra l'altro c'era anche una ragazza italiana, Giulia Minola si chiamava, e oltre ai morti ci furono anche 650 feriti, era dovuti a quelle calche che a volte si verificano quando ci sono questi eventi con tantissime persone. Il tema era che non c'erano vie di fuga. Per 10 anni, questo processo, che per un processo in Germania 10 anni è tantissimo, sono stati ascoltati funzionari del comune di Duisburg, organizzatori dell'evento, però di fatto questo processo si è concluso appunto con l'impossibilità a trovare un colpevole. La Welt invece, ma anche tanti altri quotidiani, ne abbiamo parlato un pochino anche a Effetto Mondo, si è occupata della decisione della Corte di Karlsruhe. A Karlsruhe ha sede la Corte Costituzionale tedesca, che doveva esaminare un ricorso, in realtà fatto precedentemente alla pandemia, ma che comunque adesso è stato esaminato, che riguardava il comportamento della Banca Centrale Europea, diciamo a partire dal 2015 in poi, quindi tutta la fase di quantitative easing decisa dall'allora governatore Mario Draghi, che naturalmente poi ha avuto delle conseguenze su tutte le banche centrali, su tutti i sistemi e le politiche economiche dei vari paesi. E la Corte di Karlsruhe ha chiesto l'esito di questo esame dei giudici costituzionali tedeschi è stato che la BCE deve dare spiegazioni su che, come, perché si è sentita autorizzata a agire in quel modo a nome di tutti i paesi europei. Questo naturalmente non ha effetti retroattivi, perché per fortuna questo almeno nel diritto tedesco non è possibile, cioè un effetto retroattivo di una legge o di una sentenza, però certo sono sentenze che potrebbero pesare sulle future decisioni della Banca Centrale Europea. E questo, insomma, tutti i giornali, la Welt, la FAZ, mentre, come appunto avevamo detto anche durante Effetto Mondo, la Süddeutsche Zeitung, che è un quotidiano, non è un quotidiano orientato chiaramente, non è un quotidiano d'opinione, ecco, però è un quotidiano che sicuramente è su posizioni più progressiste rispetto a FAZ e Welt, e quindi nell'editoriale si leggeva: si tratta di una sentenza storica dalla portata non ancora prevedibile, e comunque è una cattiva notizia per l'Europa. Poi c'è tutta la questione del calcio, e qui i giornali tedeschi prima avevano appunto, a cominciare dalla FAZ, gli occhi puntati su Angela Merkel, che poi insieme al suo governo ha deciso che il campionato tedesco, la Bundesliga, può riprendere. E questa è naturalmente una soluzione che piace a tutti i tifosi di calcio, a tutte le persone che lavorano nel sistema calcio, che anche in Germania muove molti, molti soldi, ma nel senso che è un settore, un vero e proprio settore economico, quindi dal calcio dipendono tante persone, non naturalmente soltanto le star che scendono in campo, e quindi la decisione è stata accolta favorevolmente. Poi naturalmente, come tutte le decisioni di deconfinamento, possiamo dire, che vengono prese dai vari paesi in questo momento, bisogna poi aspettare nelle settimane successive se non ci sono contagi di ritorno o avvenimenti sanitari che facciano rivedere le decisioni prese. Le Monde e tantissimi altri quotidiani, anche questo lo abbiamo segnalato in Effetto Mondo con Alessio Maurizi durante questa settimana, molti quotidiani hanno pubblicato foto scattate in Italia dove si faceva vedere appunto l'Italia, che è stata in un certo senso in Europa il primo paese ad adottare un lockdown, a chiudersi, e però è stato anche uno dei primi paesi di fatto a riaprire. Quindi Le Monde per esempio ha pubblicato una foto di un'edicola in Trastevere. I quotidiani britannici hanno pubblicato la foto dove si vedevano tre diverse generazioni che potevano riabbracciarsi, e ancora, insomma, altre foto scattate in Italia. Naturalmente tutti, è un po' come se fossimo tutti speciali osservati degli altri, nel senso che noi stiamo osservando quello che sta succedendo in Germania. Tutti noi, scrivono i quotidiani, abbiamo osservato come quello che è, per quel che si può naturalmente, da qui, quello che è successo in Cina, dove anche lì primo paese al mondo a essere colpito dalla pandemia, primo paese al mondo a entrare in lockdown, primo paese al mondo a lasciare il lockdown. Quindi per questo appunto c'è questo un po' gioco di specchi, ecco, e dove si cerca di imparare dagli errori o dalle buone pratiche degli altri. Vi segnalo anche, per tornare, perché poi alla fine anche questa settimana, per tutti gli sforzi che ho cercato di fare, ma notizie non legate alla pandemia ce n'erano veramente poche, I quotidiani americani e i network americani hanno dato molto spazio alle dichiarazioni di Anthony Fauci, che sapete è il direttore dell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive Americane, ma è anche forse lo scienziato di maggior rilievo e anche di maggior fama internazionale, anche all'interno anzi soprattutto all'interno della comunità scientifica, ed è nella task force di Donald Trump per la lotta al virus. E ha cercato di spiegare, lui sta facendo questo, secondo me, lodevole sforzo anche di divulgazione e con molta onestà e trasparenza sta ripetendo che per quanto si cerchi, ci sia uno sforzo mai visto di arrivare a un vaccino coinvolgendo scienziati di tutti i paesi e malgrado ci siano già delle terapie, il fatto è che questo virus è diverso da tutti gli altri che si conoscono. Anthony Fauci ha quasi 70 anni di virus, ne ha studiati, conosciuti, combattuti e anche sconfitti tanti, e però appunto è il primo a dire su questo coronavirus stiamo ancora imparando. In Gran Bretagna molto spazio al fatto che è iniziata la sperimentazione dell'applicazione per smartphone da utilizzare come misura anticontagio, l'equivalente un po' della nostra molto controversa Immuni, e anche lì vedremo perché Boris Johnson, che peraltro lo ricordiamo, è stato anche ricoverato in terapia intensiva, anche se non è mai stato attaccato a un ventilatore perché aveva il coronavirus, ha fatto poi circa 10 giorni di convalescenza, è tornato a Downing Street, sicuramente appare meno grintoso perché sappiamo che appunto tra i tanti effetti poco conosciuti, poco chiariti di questo virus ci sono i periodi per recuperare, i periodi di convalescenza. Comunque Boris Johnson, lo riportano tutti i quotidiani britannici, sta cercando di anche lui preparare una fase 2 che probabilmente potrebbe scattare il 1 giugno. Vi segnalo infine da internazionale un altro tema secondo me interessantissimo. In questo caso è un articolo pubblicato da The Atlantic di Rachel Donadio e tradotto appunto da Internazionale nel numero in edicola questa settimana, che ha la copertina dedicata al grande tema che estate sarà. Ma in questo articolo, che si intitola Le scelte morali della fase 2, si tocca un altro tema che è stato già molto dibattuto in Germania, ma credo che questa discussione, questo dibattito, si spera il più costruttivo possibile, dovrà coinvolgere tutti i paesi, e il tema è questo, che ognuno dovrà trovare da sé un equilibrio tra accettazione del rischio, perché ce lo stanno dicendo tutti, c'è addirittura la possibilità di una seconda ondata, quindi il coronavirus è un rischio che non sparirà, serenità mentale e necessità di un reddito, decisioni che condizioneranno i rapporti sociali e la salute pubblica. E con questo vi lascio e ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Per chi vorrà, ci sentiamo domani mattina verso le 7:10, 7:15 per la rassegna stampa italiana.